finisce la terraferma, ma il viaggio non è finito. Riusciremo a superare questa barriera e dall'alba che esalta la nascita del mondo, la spiaggia della speranza si estende su centinaia di chilometri e ognuno si trascina il suo orizzonte interiore. Angeli neri, spiriti fuggiaschi, stanchi parassiti, cavalieri depositari di voci del tre bomba. Ognuno si trascina il suo puzzle interiore. Voci che cantano, voci di speranza. E ora che la terraferma si ritrova al di là di questa barriera, io vi posso assicurare che non è stato un sogno. È stata piuttosto una conferma di qualcosa che già sapevamo in partenza, e quell'evidenza che non si vuole vedere. Apriamo il catalogo dei destini che possono darsi ad un uomo o ad una donna, soprattutto per quella parte di vita che appunto è il farsi di un destino. La giovinezza, dalla nascita che sovente porta con sé un auspicio o una condanna, alle prove poi per diventare maturo, poi adulto per confermarsi come essere umano. Da noi, in Africa, non vi è mai stata una drastica divisione dei viventi in re e poveri, ma esiste semmai la loro parità sostanziale. Certo, c'è la persecuzione dell'innocente, il suo riscatto, ma sono solo termini di una dialettica interna ad ogni esistenza. L'amore incontrato, ancora prima di conoscerlo, ma poi subito sofferto come bene perduto. Da noi è forte la sensazione di soggiacere ad incantesimi. È forte la consapevolezza di essere determinati da forze complesse e sconosciute. Impellente la voglia di liberarsi, di autodeterminarsi, anzi, in non potersi liberare da soli, ma in liberarsi liberando anche gli altri, ma soprattutto l'inespugnabile desiderio di quell'Africa che non vuole morire doppiamente. Già, l'Africa, ve ne vorrei parlare dell'Africa, ma purtroppo ve ne dovrei parlare al plurale, sì, perché l'Africa che abbiamo oggi è figlia della colonizzazione. Noi in passato avevamo sposato la natura, dalla quale traevamo tutti i mezzi di sussistenza, e i giovani crescevano all'ombra dell'albero baobab, ascoltando il nonno raccontar loro delle storie. E erano spesso storie di vita, e ogni storia che finiva si concludeva con una morale, e la raccolta di tutte quelle morali diventava il codice di comportamento che tutti i giovani dovevano sapere a memoria. Ed grazie a quel lavoro che facevano gli anziani non si sentiva più di tanto la mancanza di una scuola moderna, si frequentava la scuola della saggezza. E anche per questo si usa dire da noi ancora oggi che un anziano che muore sia una biblioteca che brucia. Il futuro non era mai in pericolo perché i problemi erano trattati sotto l'albero dove il consiglio dei anziani si radunava e aveva il diritto di veto. Ogni cognome aveva un significato e permetteva al griot di cantare la storia dell'individuo e del suo ruolo nella società. Quella scienza era tramandata da generazione a generazione. Il griot era consigliere del re, il figlio del griot era il griot del principe. E tutti i canti, le danze, i suoni imitavano il regno degli animali che erano santificati. Dauda sane kolobute, kolobute musondala, ninkinanka bayorola, bayorola te musobala. Wa, iyao wa yo, iyao wa. Dauda sane kolobute, kolobute musondala. Ninkina ka bayorola, bayorola te musobala. Wa, iya o, Nella società ogni vittoria era comune e ogni sconfitta era generale. Di conseguenza nessuno poteva pensare di farsi la doccia mentre il vicino di casa moriva di sete. Vi era anche la consapevolezza che sbagliare era del tutto normale, perché nella vita si riteneva che chi fa falla, ma chi non fa sfarfalla. Sapevano dell'esistenza di altre culture e di altri popoli, e incontrarli significava semplicemente sentirsi raccontare cose mai viste, tant'è che nel mio paese, che è il Senegal, non solo mio, quello di tanti altri che oggi purtroppo non ci sono per poter testimoniare del loro essere senegalese. Stranamente nel vocabolario non risulta il termine straniero. Si usa la parola ospite. Anche per questo motivo la prima stanza in tutte le case in costruzione è sempre attrezzata, curata e lasciata libera per gli ospiti, anche se non ce ne sono. Negugan, Potugan, Lalugan, Teralgan. E anche per questo non si sono preoccupati, vedendo altre persone sbarcare dalle navi. Le accogliemmo come nunzi divini. Per loro si cantò, si ballò, si spalancarono le finestre, hanno subito voluto mercanzie, fu dato loro tutto, avorio, spezie, pietre preziose, ma poi, grazie alla scoperta del nuovo mondo, il dolore diventò la nostra quotidianità, quella del cuore e dello spirito. Saltarono i regni, ci fu uno sbarimento progressivo dei valori morali, culturali, tradizionali. Lungo tutto il continente nero si scatenò la caccia al negro. Al largo del Senegal c'è un'isola chiamata Gorée. Quell'isola per noi è un luogo di memoria e di raccoglimento, perché Gorée fu, per 3 secoli, centro di raccolta e di smistamento per almeno 15 milioni di negro africani. Lì c'è una casa, detta dei schiavi, ma in realtà non era una casa, era una prigione costruita su 2 piani. Ai piani alti stavano i padroni e sotto, nel piano sotto, c'erano 2 celle, una detta di peso e un'altra detta di transito. E in mezzo a quelle celle c'era una pedana dove li venivano fatti stilare. Ebbene, nel cortile c'erano le scale che scendevano, andavano giù, e dietro le scale avevamo da una parte le celle delle donne, e dietro le celle delle donne quelle dei bambini, e dall'altra parte quelle dei uomini. L'etnia più ricercata era l'etnia Yoruba, Yoruba che vivevano nel delta del fiume Niger, quindi si spostavano sempre in barca, erano molto potenti fisicamente. Allora si è pensato che magari era molto rischioso andare in Africa per lustrare savana, foreste, rincorrere i negri, catturarli, poi portarli in America. Allora si era pensato di prendere i Yoruba e portarli direttamente in America e garantire la trasmissione dei loro geni alle future generazioni. Ovvero, i Yoruba erano considerati uomini di monta, come lo si fa con i cavalli di razza quando smettono di competere. Il prezzo del negro dipendeva dal suo peso, il peso base era di 60 kg, ma capitava che uno ne pesasse di meno. Allora dalla cella di peso passava direttamente a quella di transito, che era un buco alto così, largo così, ci stava sulle ginocchia, le mani legate dietro la schiena, la testa che guardava in alto attraverso un buco da dove un tubo entrava direttamente nella sua gola, dall'esterno veniva nutrito come un'occa. Il prezzo della donna dipendeva dal suo seno, una donna col seno piccolo era molto ricercata e avrebbe passato la sua esistenza a soddisfare le fantasie erotiche dei proprietari terrieri che se la passavano uno dopo l'altro, e se per caso rimaneva incinta andava eliminata, perché le razze non potevano mischiarsi per editto di Napoleone, il famoso codice nero. Il prezzo del bambino era stabilito in base ai suoi denti, meno denti aveva e più valeva, perché essendo così piccolo si avrebbe fatto in tempo a modellarlo a piacimento, ad uccidere in lui quella umanità che ci consente di capire oggi qual è il confine da non superare mai tra il bene e il male, la gioia e il dolore. Capitava che un'intera famiglia venisse catturata, marito, moglie, figlia e figlio. Da quel momento perdevano nome e cognome, storia individuale e collettiva, rispondevano ad un numero, peggio ancora, prendevano nome e cognome di chi li comprava. La mattina presto venivano fatti sfilare su quella pedana, nudi e crudi come Dio li aveva fatti, spalmati di olio con i raggi del sole che esaltavano la muscolatura. Ebbene, il marito comprato da un francese, si chiamava François Gilles Jacques Robert, andrà a finire nelle Antille e in Guadalupe ad Haiti. La moglie comprata da un inglese si chiamerà Mary e andrà a finire in una qualsiasi isola britannica. La figlia comprata da un portoghese si chiamerà Edineia o Isaora, andrà a finire in Brasile, e il figlio comprato da uno spagnolo si chiamerà Juan e andrà a finire a Cuba. Quei quattro non si rivedranno mai più. E se vi è mai capitato di aprire una scatola di sardine, avrete una idea di come erano stipati nelle navi. Ebbene, non avendo strumenti di navigazione moderni, spesso la traversata dell'Oceano Atlantico durava in media 6 settimane. Il carico di schiavi arrivava a volte a 450 individui e i marinai non erano mai più di 30, quindi bisognava badare alla propria sicurezza. Tutta una fila, tutti la testa in giù, quella successiva tutti la testa in su e in mezzo inserire altri in modo tale che non solo su un piano della nave, ma su tutti e tre i piani 450 individui si hanno impossibilitati a muoversi. Quindi per 6 settimane, in balia alle onde dell'Oceano Atlantico, 450 individui non potranno neanche muovere un dito. Quindi per 6 settimane tutto avveniva lì sul posto, anche i loro bisogni. Immaginatevi in quale condizione quella nave approdava in America, e in effetti veniva messa in quarantena per controllare che non vi siano malattie gravi o meno. E nel frattempo i striloni andavano in giro nel paese a dare l'annuncio: Ladies and gentlemen, signore e signori, attenzione, solo per voi. Chi non mi ascolta ha perso l'occasione della sua vita. Nave in arrivo dall'Africa con a bordo 80 Yoruba, 100 senegalesi, 20 gambiani, 80 maliani. E così il giorno della fiera ogni proprietario terriero si presentava con il marchio. Era un pezzo di metallo rotondo, più o meno di queste dimensioni, lungo circa 90 centimetri con il manico di legno, per evitare di scottarsi. E lì saranno incise le sue iniziali. Bene, quel giorno tutti i negri comprati saranno stesi per terra, nudi e crudi, la pancia in giù, con quel pezzo di metallo incandescente che passerà dietro la schiena di ognuno di loro. Quel marchio li rimarrà addosso per sempre. Servirà poi per poterli rintracciare qualora dovessero cercare di fuggire. In effetti, non esistevano negri liberi. Sarebbe bastato guardare la schiena e riportarlo al legittimo proprietario, dietro ricompensa ovviamente, e la punizione esemplare, in piazza, in cima all'albero. Io ho speso dei soldi. Io ho cercato di darti una umanità. Io ho cercato di darti una civiltà. Io ho speso dei soldi per te. Invece di ringraziarmi, tu cosa fai? Fuggi. Devi dare l'esempio. In cima all'albero, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ah, domenica puoi. Come tutte le buone famiglie, ci si alza presto, con tanto di fili a seguito, perché dobbiamo andare in chiesa a pregare il Padre nostro. Tu che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Andiamo in chiesa a chiedere la grazia alla Madonna, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Andiamo ad ascoltare l'omelia del prete che ci invita a seguire gli insegnamenti d'amore professati da Gesù. Ma una volta finita la messa, era come se qualcuno avesse dato loro il segnale di assenza di Dio. Tutti di corsa si ritrovano intorno a quel piazza, con il negro terrorizzato che a volte li guardava chiedendosi 2000 perché e non riusciva neanche a darsi un inizio di risposta. I bambini in prima fila e si comincia a scommettere, sapete su cosa? Su quanto tempo quel negro riuscirà a reggere una volta calato giù dall'albero con la corda intorno al collo. Secondo me questa è una bestia. 2 minuti, ma te sei scemo, ma va, no, 1 minuto, ma va, no, 40 secondi. Sì, papà, secondo me 40 secondi va bene. E così quando tutto è pronto cala il silenzio, si aspetta il boia che si avvia col passo lento ma sicuro. Però a volte il negro sveniva, allora bisognava rimandare tutto perché si è svenuto. Come cavolo faremo a determinare con precisione quanto tempo ci avrà messo a morire? E quando tutto è pronto cala il silenzio, inizia la conta come si fa l'ultimo dell'anno aspettando la mezzanotte. 10, 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Un calcio dietro la schiena e quel corpo che pesantemente cade dall'albero, un brusio di foglie morte. Tutti che trattengono il respiro, con quel negro che cerca disperatamente di inserire le dita fra la corda e il collo per far filtrare un po' d'aria che lo avrebbe mantenuto collegato alla vita terrena, ma non ce la fa perché la corda copre tutto il collo, ma ha davanti a sé qualcuno che lo guarda dritti negli occhi e gli invita a resistere. Dai, non mollare, ancora 20 secondi ti prego, dai, c'eri duro, solo 20 secondi, glielo diceva. Non per salvarsi la vita, ma perché resistendo 20 secondi avrebbe vinto la scommessa, soldi coi quali magari avrebbe poi comprato i regali promessi al figlio presente in prima fila. E così sarà fino a quando quella mano pesantemente cade lungo la coscia. La bocca si apre grande. Tutti continuano a trattenere il respiro, gli occhi si aprono grandi, il labbro inferiore che si gonfia, la lingua che pende. Lui cerca ancora di rimanere attaccato alla vita terrena, con affanno rimane lì. Si aprono ben più grandi ancora, la bocca si spalanca, la lingua pende, il labbro inferiore si gonfia di più, una bocca dalla quale fuoriesce una schiuma bianca che va a bagnare tutto il suo petto, ma non è ancora morto. se fosse percosso dall'elettricità. Le dita dei piedi si muovono ancora a scatti. Ancora le dita dei piedi si muovono a scatti. E questo non va bene. Questo bastardo mi sta rovinando. Morì! Morì! Che cazzo fai? Ma perché non muore? Morì! Brutto stronzo di merda, morì! Mi vuoi rovinare? Morì! Stronzo! Ho puntato la mia vita! Morì! Negro di merda! Negro di merda! Negro di merda! I vincitori si congratulano fra di loro intascando i loro soldi. Coloro che hanno perso passano davanti al corpo appeso per affogare la loro rabbia. Le lasciano in ricordo uno sputo. Poi si torna a casa fino al prossimo fiasco ripreso. E questo non succedeva per un anno, due, 20, 40, 50, no, ma per ben 3 secoli. Signora, quanti anni sono 3 secoli? Quanti anni sono 3 secoli? 300. Per 300 anni. Dico bene, per 300 anni? Uno come me non poteva minimamente immaginarsi di ritrovarsi qua, dinanzi a voi. Per 300 anni uno come me non poteva sognare, sposarsi, fare figli. Per 300 anni uno come me non poteva minimamente immaginarsi di poter affittare un appartamento nel vostro condominio. Per 300 anni uno come me non poteva minimamente immaginarsi di ritrovarsi qua dinanzi a voi. Perché? Perché negro. E poi viene la luce. E poi venne la luce, venne il silenzio. Viene il silenzio con la luce, che fu il principio e la fine, l'alfa e l'omega. Venne la luce. Venne quel momento in cui finalmente l'umanità intera comincia ad acquisire una coscienza. Finalmente decidiamo di aprire gli occhi e rendersi conto che tutti noi siamo ugualmente diversi. Finalmente, ragazzi, non sentite la notizia, è talmente bella che non farete fatica a crederci. D'ora in poi vi sentirete liberi di viaggiare. Andate, baciate, abbracciate, sposate il mondo. Andate, ma guai a voi se proverete a processare la vostra storia. Sbaglierete, la storia non si può riscrivere, è quella che fu, va presa per quella che è. Ma invece voi dovete muovervi analizzandola, capirla, condividerla e impegnarvi poi che gli errori che ci furono non si riproducano più. E tutti noi prendiamo, agiamo, abbracciamo il mondo. Edibe Zangalewa, Edibe Zangalewa, Mamaninga Zangalewa, Amaniba Zangalewa. Edibe Edibe Edibe Edibe Zangalewa, Edibe Edibe Edibe Edibe Zangalewa, Tamina Mina, Waka Waka, Tamina Mina Zangalewa, Anawa Edibe Zangalewa, Edibe Zangalewa, Mama Ninga Zangalewa, Amaniba Zangalewa, Edibe Edibe Edibe Edibe Zangalewa, Edibe Edibe Edibe Edibe Zangalewa, Tamina Mina, Waka Waka, Tamina Mina Zangalewa. Anawa Zangolele, Zangolele, Tamina Mina Zangalewa, Anawa. Anawa. Anawa. E così tutti noi ci abbiamo creduto, e così tutti noi ci siamo dimostrati molto resilienti, e tutti noi ci siamo mossi a chiamare gli altri fratello, a chiamare mamma, la mamma dell'amico, a chiamare babbo, il padre dell'amico, a chiamare fratello con l'altro. Ci siamo mossi tutti noi, anche io ci ho creduto. Non ho fatto niente altro nella mia vita se non costruire ponti, riavvicinare, unire intorno all'umano che c'è in ciascuno di noi, che riunisce. E così fu fino il 31 maggio 2009. E quella fu una giornata soleggiata. Domenica era a Milano, la grande metropoli. Erano le 19:45, io andavo a prendere il tram, cosa del tutto normale in una grande città come Milano. Non ero nemmeno solo alla fermata del tram in via Espinasse, perché accanto a me c'era un gruppo di individui, una trentina, prevalentemente sudamericani. Mi metto dietro al gruppo, avevo un libro. Un uomo italiano, sui 30 anni, si volta verso di me e mi dice: qui c'è qualcuno di troppo. Dico: beh, non mi sembra. Mi fa: no, c'è qualcosa che non va. Dico: no, a me non risulta, io aspetto solo il tram. Ah, aspetti il tram, mi dice. Si volta e rientra di nuovo nel gruppo. Io dico, comincio a pensare: eccone un altro che magari avrà fatto un viaggio in Africa, vorrei attaccare bottone, ma adesso io sono un po' di corsa. Ed è passato un attimo. Quando si è voltato di nuovo verso di me, avevo già un coltello in mano e me lo infila nell'addome. Io cado a terra, lui ritira il coltello, mi colpisce una seconda volta vicino all'ombelico e lo tira in su. Mi accascio, lancio un urlo, lui ritira il coltello e mi sputa in faccia. Io rimango lì un attimo, da terra vedo le sue scarpe anfibi nere e poi camminando se ne va tranquillamente. Io cerco aiuto, urlo, grido, ma c'è il deserto intorno a me, la gente è fuggita. Probabilmente anche io nelle medesime condizioni loro, forse sarei scappato anche io, ma dopo 200 metri mi sarei fermato, avrei preso il telefono per chiamare l'ambulanza, la polizia, qualcuno. Ma niente di tutto questo. Io cercai di avvicinarmi alla strada, alzando la mano per bloccare gli automobilisti, ma ogni volta che alzavo la mano c'erano le mie interiori che fuoriuscivano. Gli automobilisti, vedendomi con quella scena, anche loro terrorizzati, inserivano la retromarcia e cambiavano direzione. Perdevo molto sangue e mi girava la testa. Stavo per svenire, ma sapevo anche in quelle situazioni svenire avrebbe significato certamente una morte sicura. Sono stato accoltellato alle 19:45 e lì sono rimasto fino alle 20:45. Per fortuna c'erano le auto parcheggiate lungo via Espinasse. Mi attacco a quelle auto per raggiungere via Lecertosa, che era molto più trafficata. E lì mi metto in mezzo alla strada, allargo le braccia e blocco il traffico. Dico a tutti qui: o mi finite voi o mi portate all'ospedale, ma non passerà mai più una macchina, e cado a terra. Io mi ricordo il volto di una signora, doveva essere dottore, che cercava di darmi un po' di sollievo. Poi la barella, la corsa all'ospedale, mia moglie che mi aspettava non vedendomi arrivare. Chiamo sul mio cellulare, rispose la polizia. E lei di corsa arriva al pronto soccorso, va dal poliziotto di turno per capirci di più e si sente dire che era probabilmente una delle solite lite fra stranieri andata male. Il giorno dopo i miei amici andarono al commissariato per fare la denuncia e si sentono dire che la denuncia doveva essere nominale, ovvero io con 26 punti interni e 32 punti esterni, sotto morfina, con tanto di flebo, avrei dovuto trascinarmi al commissariato e fare la denuncia. Io sono rimasto all'ospedale 14 giorni, non ho visto un poliziotto, non ho visto un magistrato, non ho visto un carabiniere, non ho visto un vigile, non ho visto nessuno. E la stampa dov'era? Latitante. Ah sì, mi ricordo, eravamo alla vigilia dei ballottaggi, c'erano le elezioni provinciali. E allora l'immigrazione, meglio non toccarlo in quel momento. Vuoi che perdiamo i voti? Ma no. Destra, sinistra, centro e le stesse. Mi hanno dimesso con una prognosi di 19 giorni. Questo è importante saperlo. Un giorno in più, ovvero, con una prognosi di 20 giorni, scatta d'ufficio l'indagine per tentato omicidio. E siccome la mia prognosi era di 19 giorni, per tutti quell'uomo non voleva neanche ferirmi, cercava solo di spaventarmi. Poi io mi viene da ridere quando penso a quel signore lì che ha ricevuto in faccia una statuina del Duomo. Ha avuto 40 giorni di prognosi. Ma io non sono solo in questa storia. Accanto a me migliaia di giovani vite, giovani delle belle speranze, che fuggono da fame, guerra, mortificazione, soprusi, vessazioni, appiattimenti dei valori culturali, tradizionali, sociali. Io li sento accanto a me. Chi siete? E da dove venite? Da uno dei tanti paesi che abbiamo attraversato insieme. E voi? Dalla guerra, dalla fame. Signore e signori, attrezzatevi per fare assieme a noi un lungo viaggio nel mondo spesso nascosto dei migranti. La distanza che separa le abitazioni delle fonti d'acqua in media è di 10 chilometri e se tu non hai fortunato avendo in casa un cavallo, un asino o una bicicletta, a piedi lo devi fare. E però a volte ci ritroviamo lì in 20, 30, 40, tutti con la premura, ma mica tutti potranno essere serviti. Allora si litiga per l'acqua, poi porti l'acqua a casa, la colazione, non so cosa sia. Non so se da qua te stai via, e nemmeno la scuola è sempre a casa, sono altri 10, io mi sono già sparato 20 chilometri. Cammini in Piazza Savaro, ad un certo punto vedi una struttura. Qual è la scuola? Le pareti sono di lamiera. Vai dentro, vedi, non ci sono banchi e ci sono più di 100 ragazzi attaccati gli uni agli altri come delle sardine. Non c'è il tetto. Qual è la scuola? Ma io ci andavo volentieri. Io ci andavo con piacere, perché la scuola era un luogo che mi permetteva di evadere un po', perché a scuola mi potevo costruire il mio percorso individuale. Sì, io stavo bene a scuola. È vero che a volte, sai, si fa fatica perché da noi non esiste l'inverno. sono due stagioni, la stagione delle piogge, che sarebbe più o meno l'inverno, dove abbiamo intorno a 27-28 gradi, e la stagione secca, quindi l'estate, dove a volte arriviamo anche a 40 gradi. Ebbene, è solo che intorno alle 11:30 spesso fa un caldo tremendo, e il sole sembra essere lì a 2 centimetri dalla tua testa, che bolle, e poi lo stomaco ti chiama, a volte ti distrae. Però per questo motivo l'insegnante spesso ce l'avevo con me. E quel giorno lì, lei mi chiama. Io vengo e dico, questa volta non ho fatto niente, mi fa. Domani viene l'ispettore e tu puoi stare a casa. E dico, come stare a casa? Se vuoi io ti pago, ma non venire a scuola domani. E dico, no, mia mamma mica mi lascia a casa, no, mi manda a scuola a calci nel sedere. Non ti preoccupare, se vuoi ti tirano più anche la paga, però tu domani, mi raccomando, ti prego, non venire. Ebbene, d'accordo, io quel giorno lì faccio le ore piccole, mia mamma mi viene e mi tira giù dal letto, colpi di sperma, papà, via, a scuola. Dico, ma il maestro mi ha detto di non venire, e gli altri ci sono? Penso di sì, allora ci devi andare. L'insegnante, appena mi vede, muore nei capelli. Ma io non capivo chi era l'ispettore. Perché avevo terrorizzato così il maestro? Ad un certo punto vediamo arrivare un armadio a due arti, un omone, sotto un sole cocente, era vestito, canottiera, maglietta, camicia, cravatta, gilet, doppio petto, sotto un sole cocente, sudavo come un cavallo, ma era lì alle spalle del maestro che ci guardavano. Allora il maestro, per fare la bella figura, bene ragazzi, allora siete pronti? Tutti noi, sì, carichi, sì, allora vi faccio una domanda, ebbene, conoscete il signor Cristoforo Colombo? Sì, allora mi sapete dire che cosa ha fatto dopo aver messo il primo piede in America? Era una vergogna. E allora l'ispettore, che era strafelice con la penna che parlava il maestro l'era disperato, ma nei capelli che ci guardava, che faceva così, cosa ha fatto dopo aver messo il primo piede? E tutti, io ho alzato la mano e lui mi guarda e mi fa, dico, ma è possibile che una domanda così semplice nessuno dei miei compagni abbia il coraggio di rispondere? Alzo di nuovo la mano e lui da dietro. Alla fine mi vede l'ispettore, per fortuna, e dice, ma c'è quel ragazzo lì che alza la mano? E lui parla. E mi alzo, mi rimetto a posto la maglietta e dico, il signor Cristoforo Colombo, dopo aver messo il primo piede in America, ha messo il secondo piede e lui è diventato isterico. Vai via dalla mia casa, non ti voglio più vedere, sparisci. E mi manda via. Io arrivo a casa, trovo il nonno, che mi vede anche lì sorpreso. Ma che ci fai qua? E mi ha cacciato il maestro. Che è successo? Mi ha fatto una domanda, ho risposto e mi ha cacciato. E qual era la domanda? Cosa ha fatto Cristoforo Colombo dopo aver messo il primo piede in America? E tu cosa hai risposto? Ha messo il secondo piede, giusto? Una persona normale che cammina mette un piede dopo l'altro. O almeno che il maestro abbia visto qualcuno camminare ritroso. Ebbene, io da quel giorno non sono mai più tornato a scuola. E andavo a lavorare nei mercati, a aiutare le persone anziane, a portare la borsa di spesa che mi davano la mancia. Ed ero strafelice la sera a tornare a casa con un po' di soldi, partecipare alle spese. E un giorno incontrai un mio insegnante che mi disse che c'era il consolato francese che aveva organizzato un concorso letterario, mi chiese di partecipare io, ma chi vuoi che abbia interesse a leggere quello che racconto io? Ma tanto tentare non costa. E partecipai. Mi ricordo, 3 mesi dopo, eravamo nel cortile, io con mia mamma, no? Lì a chiacchierare, arriva il postino e mi chiama per nome e cognome. E subito mia mamma, cosa hai combinato? E io niente. niente, mamma, non mi sono mosso da qua. E il postino che insiste, vieni qua, vieni, c'è qualcosa per te. Oh, la busta era per me. E proveniva dal consolato francese, perché il mio racconto era stato premiato. Avevo vinto il primo premio. In una busta c'erano 1200 franchi, con quei soldi la famiglia aveva da mangiare. E dall'altra c'era il visto, dovevo andare in France, a Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le boulevard Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, la Tour de la Défense. Mi ricordo bene, avevo addosso due maglioni, era gennaio, e tutti cominciano, copriti. Ma io picco porte di così. Non basta. Ma va. Io non stavo nella pelle. Per nella pelle, perché andavo in Francia. Parigi mi accolse con un freddo pazzesco. C'erano meno sotto. Soffrivo, mi scappava la pipì ogni due secondi. E solo che lì non vedevo le indicazioni per le toilette. L'unico luogo dove potevo andare era al bar. Ma mica al bar puoi entrare e chiedere delle toilette, no? Devi prendere qualcosa. E io quello che potevo prendere era quello che costava di meno, il caffè. Cosa che non avevo mai bevuto in vita mia. Allora immaginate ogni due minuti. Excusez-moi, monsieur, oui, un caffè. Oui, le toilette là-bas, merci. Dopo due secondi torno in tre. Bonjour, monsieur, oui, un caffè. Oui, le toilette là-bas, sì, merci. La terza volta appena mi vede arrivare mi dice un caffè, le toilette là-bas. Io quel giorno mi sono ubriacato di caffè. Dopo tanta fatica finalmente riesco a trovare la metropolitana, quella giusta. Era affollata, trovo un posto a sedere, mi siedo. Accanto a me una coppia di ragazzi della mia età più o meno. Oh, erano apparentemente normali, voglio dire, erano sani di mente. Però sotto gli occhi di tutti si baciavano. Ed era la prima volta in vita mia di vedere dal vivo due persone che si baciavano. Io mi ricordo quando andavamo in giro col mio babbo e le mamme, il babbo era a 40 km davanti, noi figli in mezzo, le mamme 60 km dietro, ma stavamo insieme, eh? E lo dico soprattutto per voi ragazzi italiani, guai a voi andare in Senegal a pensare che la ragazza che vi camminerà è da sola, no, c'è il marito a 100 km dietro, guai a te. E allora io all'improvviso mi ritrovo qua accanto a queste due persone che si facciavano. Ma lì avevo anche capito che è vero, paese che vai, mal di pancia che trovi. Stava a me cercare di calarmi nei loro occhiali culturali. Per due anni hanno tutto bene. E allora mi arriva una lettera della prefettura, bisogna ritornare. Ritornare dove? Io volevo il terzo anno prendere il diploma. Ma hai idea di quanto significato ha presentare giù in Africa un diploma dove sopra c'era scritto République Française? Hai una chiave di accesso a tutte le strutture del mondo e uno che si è laureato in Francia, ha studiato in Francia, e uno che conosce Victor Hugo, Guy de Maupassant, Proust. Ma no, non ci penso neanche di ritornare. No, io volevo in terzo anno e non mi fu concesso. Così io mi ritrovai in una situazione di clandestinità. E in Francia la clandestinità è un reato, per fortuna da voi no. E lì non potevo mai avere la certezza di uscire da casa la mattina e ritornarvi la sera. Bastava un controllo di polizia e andavi in carcere. E io quando uscivo da casa mi mettevo addosso tutti i vestiti che avevo, camminando sembravo una cipolla vagante. Perché così almeno una volta arrestato, lì in galera avrei avuto la possibilità di cambiarmi. E lì stavo anche con Mustafa, che anche lui era un mio amico. Sai, quando non si ha nulla, spesso si vive di solidarietà che alimenta un po' la speranza. E io con Mustafa parlavamo di tutto, soprattutto della mia fidanzata, Kodu. Io l'amavo, Kodu. Volevo sposarla, però mi servivano 10 mucche e per avere 10 mucche dovevo trovare un lavoro. Però lei quando mi mandava le sue lettere, tante profonde, io sognavo e non vedevo l'ora di riabbracciarlo, ma Mustafa mi aiutava sempre, mi diceva, dai, dobbiamo stringere i denti, lottare, vedrai che prima o poi ci sarà una via d'uscita dal tunnel. Stavamo insieme, però poi lui ebbe la possibilità di mettersi in regola prima di me. Alla fine poi io ero diventato pericoloso anche per lui. Poi ci siamo persi di vista. però me lo cavavo per strada. E spesso c'erano controlli di polizia, arrivi, excusez-moi, monsieur, vous document, e io rifiutavo di capire francese. Io rispondevo sempre in un'altra lingua. What do you say? No, I'm sorry, I don't speak French. Ton passeport, il est où? Oh, I'm sorry, I lose it somewhere and can't find the place again. I'm sorry. Allora si comincia a litigare, uno dice, no, dobbiamo portarlo al commissariato, e l'altro dice, ma no, lascialo, questo è un cretino, non vedi, non capisce neanche francese. Tac, me lo cavavo. Fino a quel giorno io non ci avevo pensato molto, forse ero immerso nei miei pensieri. Mi sono ritrovato davanti a due poliziotti che chiedevano documenti e ho risposto in francese. Io mi ricordo che avevamo litigato, poi mi sono ritrovato steso per terra. Sì, c'erano due che mi tenevano le mani, altri due che mi tenevano i piedi. Sì, c'era anche un signore con gli occhiali, doveva essere un dottore. Io ho sentito poi un dolore all'avambraccio, poi niente. Mi sono risvegliato a casa. C'era anche Cordu, io l'ho guardata e lei ha guardato altrove, io ho insistito e lei è fuggita di nuovo dallo sguardo. Io cominciai a pensare, ma vedi, io nonostante tutti i sacrifici che ho fatto, adesso comincia a vergognarsi già di me. Invece poi dopo ho capito perché lei si era stancata di aspettarmi, si era promessa a Mustafa che era il mio migliore amico. Poi ho sentito dire che in Italia ci sono maggiori possibilità, è per questo che io sono qui. Provare in Italia. Vi prego, portatemi con voi. Portatemi con voi. Portatemi. Sapevo poco niente, se non quello che vedevo in televisione. Sai, da noi c'era una trasmissione televisiva che andava in onda tutte le sere. Sono quelle lì dove non si capisce niente. Tutti parlano sopra tutti, nessuno si ascolta, anzi, si ha l'impressione che vinca chi urla di più. Forse esistono anche da voi, come quelle lì, cortile, finestra a finestra, come si chiama? Cortile, è le stesse, cortile, finestra, qua porta, non si capisce niente. Sono trasmissioni che ti rincoglioniscono. Ma lì ho potuto anche seguire vicende legate alla mafia, Camorra, 'Ndrangheta, attentati contro i giudici Falcone, Borsellino, rapimento di Aldo Moro. Io col terrore negli occhi sono sbarcato alla stazione centrale di Milano, perché per me chiunque incontravo era un potenziale mafioso. Mi aspettavo di vedere un attentato in corso, una rapina, sequestro di persone morti, feriti lungo i binari, ambulanze, carabinieri, sangue dappertutto, la gente che urla, grida, io sto morendo. Ma non è successo niente. La gente si comportava come si fa in tutte le stazioni del mondo, baci, abbracci, addì, tutti dolorosi, ma anche ritrovi gioiosi. Parlavano una lingua strana e io facevo fatica a capire dove diciamo la frase e dove finiva. Sai, noi siamo stati comunque colonizzati dai francesi, per noi. Sai, il francese è pieno di sé, nel nostro linguaggio. Dobbiamo sempre farti capire quanto siamo colti. Cioè, tipo un francese che viene da te per andarsene il giorno dopo. Mica ti dice, je m'en vais demain. Neanche i bambini si parlano così, Ma il francese ti dirà, voyez-vous, mon cher monsieur, bosco. Demain, de l'aube, aller remplacer la campagne. Peut-être, je partirai. Tutto questo cinema per dire che sarà il giorno dopo. Ora prendiamo l'italiano nella medesima situazione, ovvero l'italiano che viene da te se ne deve andare il giorno dopo, come te lo dirà? Naturalmente quando ti parla il soggetto se lo scorda, ma non ha nemmeno il tempo di vedere se si imbianca la campagna o meno. Ti dirà semplicemente, oh, domani. E se tu non hai mai soggiornato in Italia, faresti fatica a decodificare quel gesto. Ma avevo anche l'impressione che la lingua fosse talmente complessa e difficile che non bastava parlare fra di voi per capirvi. Perché mentre uno faceva così, un altro faceva così, uno faceva così, uno faceva così, e un altro che faceva così. E io dicevo fra me e me, se è così fra di loro, neanche un secolo passerà per me che vengo dalla savana. E siccome mio cugino, che avrebbe dovuto venirmi a prendere, non si presentò, sapete, i tempi africani sono elastici, no? Si possono allungare a voglia, non c'è niente che devi fare ora o mai più, tutto puoi rimandare, tanto non muore nessuno. Io avrei dovuto fare di necessità virtù, e chi non c'è la mamma si accontenta della nonna, no? E chiedere informazioni usando le lingue che sapevo, io ero molto tranquillo, spensierato col mio zaino. Arriva uno, excusez-moi, monsieur, vous parlez français? No, no, non mi serve niente, non mi serve niente. Dico, boh, forse ce l'ha con i francesi. Arriva un altro, excuse me, sir, do you speak English? Fatto prima sulle scale c'è un tuo fratello, vai lì magari insieme. E quello mi fece pensare, io che prima vedevo in ognuno di loro un potenziale mafioso, in quel momento erano loro che vedevano in me il potenziale vucumbra. Ho detto no, io non ci sto, perché io volevo passare dallo stato di vucumbra allo stato di vupensa. Ma per fare ciò avrei dovuto per forza imparare la lingua. Ho detto proviamoci. Ho cominciato con la radio, ma in radio avevo il pepe sul sedere. Non si capisce niente, non parlano, corrono. Fatti mente locale. Ah! Mal di schiena? Terticollo? Usa momental. Fin lì capisci tutto, ma dopo in due secondi ti diranno tutta la costituzione italiana. Non si capisce, lascia perdere la radio. Ah, per fortuna c'era il dizionario, quindi era possibile passare dal francese o dall'inglese all'italiano. Ma il problema era dopo come abbinare le parole. Io francamente non so chi sia stato a diventare la grammatica italiana, ma sono convinto che si drogava. E nemmeno mio cugino mi poteva aiutare, perché a lui bastavano le parole di sopravvivenza. Dammi mille lire, ho fame, ho sete, quanto costa? E siccome in casa si ascoltava spesso radio popolare, che metteva musiche dal mondo, e un giorno io ero lì e va in onda una canzone che proveniva dalla mia terra, era Youssou N'Dour, un mio connazionale. Io con quel brano mi sono ritrovato a casa, ho visto in mezzo a casa amici, le capre, i cavoli no, solo le capre, i montoni, i topi, no, i topi no, le zanzare, sì, le zanzare, le mosche, urla, grida, un casino. Allora di corsa sono uscito dalla stanza per alzare il volume, ma sbagliai il tasto e spostai la frequenza e beccai Reggio Maria. Perché mentre tutte le stazioni correvano quando parlavano, Radio Maria era l'unica stazione che prendeva bene il tempo scandire bene le parole del Signore. Capivo tutto. Io, pur essendo musulmano, a forza di ascoltare Radio Maria, conosco perfino i Vangeli apocrifi. È solo che dopo 3 mesi mi venivo voglia di confrontarmi, capire un po' a che punto sono arrivato, facendo domande semplici. Salve, per cortesia, vorrei andare in Piazza del Duomo, come dovrei o potrei fare? Mi rispondevano senza coniugare i verbi. Ah, tu andare al Duomo? Sì, tu venire qua. Tu vedere tram lungo 32? Sì, sì, tu salire su. Però prima tu fare biglietto, perché se tu non fare biglietto, controllore, tu a casa. Prima fermata, sì, tu non scendere giù. Seconda fermata, sì, tu non scendere giù. Ma quando arrivare, terza fermata, porta Genova, sì, tu scendere giù. Ma voi avete mai visto qualcuno scendere su? Perché secondo me chiunque scendeva giù è come se qualcuno, dopo essersi fumato tutto il prato, vi vede: oh ciao raga, come butta, io oggi scendo su. Lì tu aspettare tram piccolo giallo 2, sì, arrivare tu salire su, via Torino, sì, tu vedere fermate, sì, ma tu fregare. Quando tu arrivare a fondo via Torino, sta bene attento, tu vedere palazzo, sì, ma tu non vedevi dietro palazzo. Ma dico io, se mi ritrovo di fronte al palazzo, come cavolo faccio a vedere dietro il palazzo? Allora lì scendere giù 20 metri dopo, hai capito che fai, ti spari, sorridi e ringrazi. Faccio 10 metri, però dentro di me c'è qualcosa che un po' brucia. Volta e dico: oh vieni, ti amici a te, amici, se ti desideri il minga, se va di mi sapevi minga come fa, oh parla milanese, ma c'ha per il tramba. Quello fu l'esercizio. Poi ho conosciuto Salvatore, che era il mio migliore amico. Salvatore era ancora uno bravo, abbiamo fatto tante cose insieme belle. Poi mi ha presentato a un suo cugino, il cui amico aveva un altro cugino che era imprenditore, aveva una fonderia e cercava lavoratori e ci hanno messo insieme così. Poi abbiamo iniziato a lavorare, perché era una fonderia importante, perché la ghiaia fusa doveva passare attraverso il forno a 1180 gradi e noi eravamo lì a lavorare, faceva sempre caldo, ma ormai noi siamo come bruciati, noi il caldo non è che ci dà fastidio, però i miei colleghi italiani avevano un po' di problemi. Avevamo finito quel venerdì lì, eravamo sul treno e lui ci chiama: ragazzi, sono nei guai. E tutti noi siamo fermati per dire: ma che è successo capo? Gli fa: è arrivato un ordine, adesso proprio dobbiamo consegnare lunedì mattina, potete tornare indietro? E tutti i miei colleghi: io per contratto, io mi prendo il fine settimana, vado in montagna con la mia ragazza, io vado a stare con la mia ragazza a casa, usciamo al cinema. Noi ci siamo fermati a pensare: ma noi se prendiamo il fine settimana a casa, che facciamo? A guardare la televisione, a guardare il YouTube. Abbiamo pensato: mi sono qui per lavorare. Allora abbiamo risposto: alla fine ci siamo ritrovati in 8 a dover fare il lavoro di 42 persone, però il capo aveva bisogno, noi non potevamo mica dire di no, anche perché lui ci ha preso da lavorare, non ci ha chiesto nessun documento, non ci ha chiesto nulla, e tutti i giorni finivamo di lavorare e lui ci pagava. Lui diceva sempre: io mi fido di voi, so che voi siete responsabili, voi siete qua per lavorare, non per scherzare. E quando ho avuto bisogno non potevamo non esserci. Eravamo lì a lavorare. e lui ci incitava perché eravamo un po' lenti, e è chiaro che eravamo in pochi, non potevamo fare il lavoro di tutti gli altri. E lui alla fine ha portato la macchinetta del caffè, era gratis, e io dicevo: ragazzi, chiunque di voi si stanchi, c'è il caffè gratis. E noi ci siamo imbriacati di caffè uno dopo l'altro, venerdì, sabato sera eravamo lì, e lui ci invitava a dire: ragazzi, adesso pago il triplo. E noi non ci abbiamo mai più visto, perché io ho cominciato a pensare: tutti, con tutti quei soldi, quante cose la famiglia poteva realizzare giù. Eravamo lì a gareggiare fra di noi, reparto contro reparto, operaio contro operaio, a chi colava di più, a chi colava di più. Eravamo lì a gareggiare, a chi colava di più, a chi colava di più. Io ad un certo punto ho sentito urlare. E quando ho aperto gli occhi, erano tutti lì, mai nei capelli, io non capivo niente, ero per terra. E tutti che erano lì terrorizzati, urla, grida, io dicevo: ma che è successo? E nessuno parlò, io provai ad alzarmi. E sono caduto. Ho provato di nuovo e sono caduto. E quando ho guardato ho visto che mi mancava una gamba. Perché il carrello si era staccato. La ghiaia fusa a 1180 gradi è passato vicino a me e si è portato via la gamba. Era talmente caldo che il sangue non ha fatto in tempo a scorrere, si è coagulato all'istante. Poi il capo mi spiegò che io non dovevo andare all'ospedale perché avevo fatto una cosa illegale. Io non avrei dovuto neanche essere in Italia, ma lui, nonostante quello, mi ha preso da lavorare. Mi ha portato da un suo amico che fa il dottore. Col suo amico mi ha portato a casa sua, è stato bravo. Lui mi ha curato e sua moglie anche. Mi lavava i miei panni, mi dava da mangiare. E una volta a settimana mi davano la possibilità di telefonare a casa mia. Poi un giorno lui mi chiese quali erano i miei sogni. Dico: io sono pastore. Il problema è che noi non possiamo più curare le mandrie perché manca l'acqua. E lui mi ha detto: non ti preoccupare, ma bastava dirlo prima. L'Italia è al primo posto nella produzione e nella distribuzione di trivelle. È una macchina che entra nelle profondità della terra, dovunque ci sia acqua, la macchina ci arriva e ti riporta sull'acqua. Te ne vanno quattro. Io gli dicevo: no, non volevo esagerare neanche uno. No, quattro te ne vanno. Quel giorno lei mi ha accompagnato vicino all'aeroporto in taxi. Poi avevo un appuntamento urgente, non poteva entrare in aeroporto con me. Mi ha dato il biglietto di 50 euro per prendere in taxi una volta giunto. Mi ha dato anche un numero di telefono chiedendomi di aspettare dopo una settimana di telefonare a quel numero. Mi avrebbe detto a che punto erano i macchinari che mi avrebbe già spedito. È solo che sono passati 2 anni. Io ogni giorno mi alzo, faccio quel numero e mi sento dire: Telecom Italia Mobile, attenzione, il numero da lei composto inesistente. E io sono preoccupato per il mio capo. Sono 2 anni che non riesco a parlarci. Forse è in difficoltà. In difficoltà, forse ha bisogno. Perché io quando ero nel bisogno, lui c'è stato per me. Da noi l'uomo il rimedio dell'uomo. Adesso che lui è nel bisogno, io dovrei dimostrargli la mia gratitudine. È per questo che io sono qua. È per questo che io voglio andare a dare una mano al mio capo. Perché ha bisogno. È per questo che io sono qua, voglio ritornare in Italia e vi prego, portatemi con voi, portatemi con voi. Volevano vincere una medaglia ai giochi della gioventù. Volevano smettere di arrivare in anticipo per paura che gli altri non li aspettassero. Volevano smettere di fare dei programmi e cambiarli ogni volta. E volevano poter dire quello che pensano sui temi religiosi, sociali e politici senza rischiare di finire in prigione. Volevano poter leggere un libro a settimana. Volevano poter prendere la macchina e spaziare a livello planetario. Volevano essere. Volevano avere il controllo della loro vita. Sentirsi speciali, interessanti, desiderati, cercati. Mille motivi per partire. Partire per forse mai arrivare, o forse rientrare diversamente. In passato ci fu il Signor Mosè che guidò il popolo ebraico verso la terra promessa. Quando arrivarono di fronte all'ostacolo del mare, si aprirono le acque per farlo passare. Ma oggi il nostro popolo, gli ebrei dei tempi moderni, si ritrovano di fronte all'ostacolo del mare. Le acque si aprono lo stesso, ma non per farli passare. La muraglia, alta, solida, circondava quel lembo di terra affacciato sul mare, e solo silenzio, infrangersi di onde e tanta luce intorno. Ma il vento spiazzava liberamente, entrava ed usciva, si calmava e soffiava più forte a piacimento, ed eccolo, arrivò da lontano. Vento di assenza che disertiamo spinti dai sogni. Un vento che incalza orfani e diseredati. Vento fresco che porta sollievo. Vento caldo, soffocante, opprimente che stordisce. Vento carico di odori, di profumi, di aliti, respiro di vento. Vento che respira la speranza di una nuova vita dolce e rassicurante, e poi tornare a respirare il verde, il giallo e il rosso. Regina del vento che porta e trasporta, si allontana e per sempre ritorna. Salire sulla muraglia, abbracciare la pietra, sentirla, sollevarsi. Muraglia per salire più in alto, aprire le braccia e fidarsi del vento. Ed è quel nuovo vento che si trasporta dal mondo visibile al mondo invisibile. Quel vento ci trasporta dal mondo visibile al mondo invisibile. Fidarsi di quel nuovo vento che ci trasporta dal mondo visibile al mondo invisibile. Il significato delle tavolette. allora ci proviamo noi. Non avrei altro io all'infuori di te. Non nominare la nazionalità degli altri in vano. Onorare la memoria della tua città e raccontarla ai nuovi compagni che vengono da terre lontane. Onorare e rispettare le feste di tutte le culture presenti nella tua città. Non imporre il tuo punto di vista agli altri, ma imparare a confrontarti con loro. Non rubare la parola ai nuovi compagni, ma imparare ad ascoltarli. Non testimoniare sulla cultura degli altri, se non ne sai niente o per sentito dire. Non desiderare solo la tua cultura. Rischi la solitudine e l'arretratezza culturale. Non desiderare solo la cultura degli altri. Rischi di essere fagocitato e perdere la tua. Non uccidere. Non uccidere! No. Non uccidere. Non uccidere. Non uccidere! Uccidere le differenze culturali. Non uccidere le differenze culturali. Perché sono e rimarranno sempre la bellezza dell'umanità. Chiunque non conosciamo è solo un libro che aspetta di essere letto. E sarebbe davvero bello.